Darwin, l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Benvenute e benvenuti a Darwin, ciao Chiara. Ciao Federico, benvenuti a tutti. Oggi parliamo di chirurgia. Questo è il tema della puntata, le tecniche chirurgiche contemporanee, ma soprattutto quelle che stanno per arrivare. È in corso un progetto europeo coordinato dall'Università di Pisa che ha come altri partner università e imprese in Germania, Francia e anche in Inghilterra. Allora, il nome del progetto è VOSTARS e poiché si tratta appunto di un acronimo, come avrete capito, adesso chiediamo al nostro ospite Vincenzo Ferrari di sciogliercelo. Intanto benvenuto Ferrari. Grazie dell'invito e un saluto a tutti. Cominciamo col dire cos'è VOSTARS e poi la presentiamo. L'acronimo VOSTARS significa Video Optical See-Through Augmented Reality Surgical System, quindi parliamo di un sistema per chirurgia. E lei che ruolo ha all'interno del progetto? Allora, io sono il coordinatore di questo progetto e col mio gruppo lavoriamo su queste tecnologie da più di 12 anni, con l'intento di fornire al chirurgo una guida che appare di fronte ai suoi occhi, che gli permette di eseguire l'intervento con la massima precisione. Lei, Ferrari, afferisce al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa ed è docente di Ingegneria Biomedica. Dunque, Ferrari, stiamo parlando di realtà aumentata applicata in sala operatoria. La realtà aumentata è quella tecnologia, diciamo, che si basa su un casco indossato da un operatore che sta facendo una specifica attività, anche riparare un motore molto complesso, per esempio, di aereo. Operatore che riceve molte informazioni aggiuntive attraverso immagini video che appaiono appunto nel casco e che si aggiungono alla visione reale. Esattamente. Ad oggi il chirurgo fortunatamente può pianificare molti interventi nei minimi dettagli grazie alle informazioni contenute in immagini mediche come tomografie computerizzate, risonanze magnetiche e quant'altro, che oggi appunto possono essere usate non solo per fini diagnostici, ma anche per pianificare in dettaglio il trattamento, perché grazie a queste immagini, prima dell'intervento, il chirurgo può capire qual è lo sviluppo tridimensionale della nostra anatomia e quindi quali sono magari le relazioni tra una parte da rimuovere malata rispetto ai tessuti circostanti. Ecco, grazie a questa tipologia di visori e grazie al progetto VOSTARS, questa pianificazione può apparire direttamente di fronte agli occhi del chirurgo. L'esempio più semplice che possiamo fare è quello di individuare qual è la linea di taglio e mostrare direttamente sull'anatomia la proiezione di questa linea di taglio. Ecco, perché Ferrari invece oggi c'è in realtà aumentata in chirurgia, però diciamo che le informazioni non sono sommate, no? Cioè il chirurgo ha una parte di informazioni che gli arrivano dal casco, poi però deve sganciarsi dalla visione del casco e vedere degli altri monitor su cui gli arrivano altri dati. C'è questa bipolarità, no? L'ambito più ampio della navigazione chirurgica è già implementato da alcuni anni, esistono diversi prodotti commerciali, implementando però una guida sotto forma di realtà virtuale proiettata su un monitor aggiuntivo e non direttamente sul campo operatorio. E beh, questo sembra un bel vantaggio, soprattutto per uno che deve stare appunto concentrato su quello che sta facendo. Ecco, se non sbaglio, VOSTARS è un progetto ovviamente di ricerca, c'è già stata un'operazione effettuata proprio con questo tipo di tecnologia? Sì, ad oggi abbiamo fatto già 4 interventi e comunque i risultati sono stati più che soddisfacenti, ottimi direi, e abbiamo coronato un sogno sul quale stiamo lavorando appunto da più di 10 anni. Il vantaggio quindi è, beh, credo anche dal punto di vista dell'affaticamento, no? Quindi forse anche diminuzione degli errori, no? E forse anche l'operazione più rapida, più breve. Sì, si ipotizzano tutti questi vantaggi. Inoltre, questa metodologia permette anche di implementare funzionalità di guida che non sono realizzabili da un punto di vista ergonomico col navigatore tradizionale in realtà virtuale. Se per assurdo in quel momento il chirurgo reseca un vaso per errore e si ha un sanguinamento, il chirurgo guarderebbe, continuerebbe a guardare il monitor senza rendersi conto del sanguinamento. Ci sono delle operazioni chirurgiche sulle quali Vostars, la vostra tecnologia, è più efficace invece su altre sulle quali non si può applicare, o in generale è trasversale? Potenzialmente è trasversale. A livello strategico nel progetto siamo partiti prendendo in considerazione gli interventi su delle strutture rigide, come quelle del cranio durante interventi di neurochirurgia o del volto per quanto riguarda la chirurgia maxillofacciale, perché abbiamo a che fare con delle anatomie rigide sulle quali è possibile ottenere un allineamento della guida in realtà aumentata in modo più robusto ed accurato. Perché per permettere di avere una guida perfettamente allineata di fronte agli occhi bisogna risolvere tutta una serie di problematiche tecnologiche e percettive tutt'altro che banali anche con le strutture rigide. E per questo motivo abbiamo detto: scegliamo un target dell'intervento aggredibile per poi in futuro spostarci anche su tessuti più difficili. E dico anche agli ascoltatori che, per chi fosse curioso di vedere appunto le potenzialità e come funziona la tecnologia, sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 metteremo un video che mostra insomma le potenzialità di questa tecnologia. Grazie davvero, buon lavoro. Molte grazie e buon lavoro anche a voi. Buona ricerca, Ferrari. Beh sì, è un dato importante e significativo. Le nuove tecnologie nel campo medico-terapeutico stanno davvero disegnando un nuovo mondo. E noi siamo qui per raccontarle. Ci trovate qui su Radio 24 e trovate tutte le nostre puntate su www.radio24.it. Ciao! Ciao Chiara, un saluto a tutti. Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.